9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon martedì 18 ottobre, come sempre prima di entrare nell'argomento di oggi che è il convegno, il forum delle associazioni del laicato cattolico tenuto ieri a Todi con il rilancio potente di una necessità di un impegno politico più distinguibile, più convergente di tutte le associazioni cattoliche italiane e la prolusione tenuta da Sua Eminenza Bagnasco che è alla guida della CEI dal 2007 e vedremo quanto divergenti sono le interpretazioni di questo importante incontro politico e sociale che si è tenuto ieri a Todi. Prima di quello due osservazioni sulla giornata come sempre. Se dovessi dirvi per paradosso qual è il quotidiano sul quale, se mai lo leggessero, il più dei manifestanti di Roma di sabato scorso oggi troverebbero alimento alle loro polemiche contro i mercati finanziari, dovrei dirvi che è il Financial Times Deutschland che ha un fantastico pezzo in cui mette in fila opinioni di autorevolissimi economisti contro tutto ciò che non è stato fatto in questi anni per mettere a posto le regole della finanza negli Stati Uniti, in Europa e nelle tre macro aree mondiali. Leggere questa infilata di giudizi durissimi di Simon Johnson, di Paul Volcker, di Jagdish Bhagwati, di Danny Roderick, di Hans Werner Sinn che smontano dalle fondamenta quel po' che è stato fatto con la Dodd-Frank, la riforma bancaria approvata con Obama negli Stati Uniti e nel lavoro portato avanti dal Financial Stability Board guidato da Mario Draghi, e veramente colpisce, insomma, perché a parole in questi giorni sembra farsi molto più avanti la strada di separare, di tornare alle vecchie leggi bancarie post crisi del 29, come la nostra legge bancaria del 36 che separava la banca commerciale di raccolta e impieghi a lunghi da quella a breve. Mi sembra che in realtà dietro poi tutti questi cori, tanto degli economisti quanto di chi protesta in piazza, in realtà domini, perché in realtà se leggete oggi gli altri giornali tedeschi vedrete che c'è un grande secchiate d'acqua gelata su tutte queste ipotesi di riforme radicali. Ieri la Germania ha comunque dato un bel po' di ghiaccio al mercato facendoli precipitare, dicendo che non ci sarà nel meeting del 23 di ottobre alcuna convergenza risolutiva né sulla percentuale di taglio dei capelli, cioè di perdita di capitale che i detentori di carta pubblica greca a cui andranno con sicurezza incontro, e naturalmente il problema è che più alta è la percentuale più forti saranno i problemi per le banche europee, per le grandi banche europee, più bisognerà ricapitalizzarle, più bisognerà pensare a meccanismi di convergenza con denaro pubblico dei contribuenti dentro, tutte cose che i tedeschi non vogliono. Anzi, ieri sui giornali tedeschi c'era un sondaggio secondo il quale il 55% degli interpellati era il 55% degli interpellati tra economisti, imprenditori tedeschi pensano che il presidente uscente della BCE Jean-Claude Trichet abbia portato la Banca Centrale Europea ad avere un ruolo eccessivo, troppo interventista sia sui mercati sia sostenendo i titoli dei debito pubblico dei paesi in difficoltà come nel caso italiano, sia mandando lettere ai governi come nel caso dell'Italia, anche in quel caso era il Financial Times Deutschland. È un'Europa su cui continuano pesanti le ombre della crisi dell'eurodebito e che di sicuro quindi non dà scampo all'Italia per i suoi rinvii, per i rinvii della nomina del governatore della Banca d'Italia, per rinvii del decreto sviluppo, per la legge di stabilità che in Parlamento avrà percorsi difficili, per il fatto che tante promesse come lo statuto delle piccole imprese poi alla fine non è passato e si è arenato, e via proseguendo. Seconda osservazione, singolare che tutto questo, mi limito a dire singolare, che Confindustria venga indicata come il vero nemico della crescita italiana oggi dal Corriere della Sera nel fondo, in prima pagina di Francesco Giavazzi. Si sostiene che il problema ha fatto più per la crescita Sergio Marchionne, che se ne vuole uscire. La Confindustria va chiusa per il Corriere della Sera perché tanti paesi ne fanno a meno e soprattutto comandano i pubblici, i gruppi pubblici in Confindustria, e poi collude con il sindacato. Io devo dire, sono singolarmente colpito che questo sia il giudizio del Corriere della Sera, un giudizio totalmente coincidente con gli ambienti del centrodestra secondo cui Confindustria va d'accordo con i sindacati e vuole fare politica, e Mi interrogherò anche oggi, perché non voglio sembrare uno che poi risponde perché è colpito l'editore. Mi colpisce molto, ecco, questo giudizio del Corriere della Sera, perché sono stato tra quelli, e mi dichiaro il mio conflitto di interesse, che in questi 2 o 3 anni ha scatenato, per così dire, cioè rotto le catene che Confindustria aveva tenuto negli anni precedenti, proprio per non toccare le regole del mercato del lavoro finché non era d'accordo la CGIL, e si è fatto il contrario, aprendo la strada a nuove relazioni industriali, alla deregolabilità dei contratti, alle intese aziendali, eccetera, eccetera. E come questo sia collusivo, visto le polemiche che è costato con la CGIL in tutti questi anni, a me sfugge, ma può essere evidentemente che il mio conflitto di interesse me lo faccia apparire strano. Ma ecco, è un paese in cui effettivamente, come si vede, ribollono tesi le più varie e le più diverse. C'è chi pensa di tornare adesso alle leggi speciali come la legge Reale. Per chi è cresciuto nella mia generazione in quegli anni sa quanto diverse fossero le condizioni. Io sono convintissimo che il problema degli strumenti più adeguati per gli interventi di polizia sia un problema da paese serio, un problema reale. Dopodiché la questione è, per quanto amara possa dirlo e tagliente sia questo argomento, che nella realtà questa protesta diffusa, su cui ancora una volta soffiano poi sopra banchieri centrali, imprenditori che vogliono fare politica come Montezemolo, è molto singolare, perché naturalmente se poi si dà ragione ai Black Bloc, un po' difficile poi dall'altra parte dire che ci vogliono i fermi di polizia, oppure no. Ecco, dopodiché alcuni oggi approfondiscono sui giornali l'ipotesi secondo la quale non è avvenuto il peggio ulteriore, cioè l'assalto ai palazzi del potere, perché in realtà una parte del movimento dei Black Bloc, dei centri sociali, sarebbe in trattative per alcuni seggi con Vendola. C'è tutta una roba sui giornali in cui minacciano adesso rese dei conti tra di loro, abbottigliate in testa. Insomma, è un paese un po' singolare, insomma, come devo dire, dove la trasversalità delle posizioni politiche, visto che Di Pietro poi a invocare la legge Reale, prevale in una specie di danza di specchietti cinesi. Questo è quello che sembra a me. Ora, rispetto a tutta questa confusione di ricette e di analisi, ieri si è svolto a Todi, ed andiamo al tema del giorno, un incontro tra le associazioni del mondo cattolico, quindi la CISL, Confcooperative, le ACLI, la Coldiretti, Confartigianato, la Compagnia delle Opere, il Movimento Cristiano Lavoratori, Azione Cattolica. E questo incontro è stato un incontro preceduto da molte attese che poi sono state confermate. Angelo Bagnasco, alla guida della CEI dal 2007, ha tenuto una prolusione nella quale ha sostenuto con chiarezza che l'assenza della regione della dimensione sociale pubblica è un peccato, è un gravissimo limite che va assolutamente evitato. Ha ribadito i temi classici della dottrina sociale del Magistero della Chiesa nell'impegno sociale pubblico, e cioè la richiesta di coerenza alla politica sui temi come la vita, la famiglia, la libertà educativa. E da questo punto di vista non è andato oltre, entrando nel merito di quello che il dibattito precedente era molto animato da attese, cioè il tema se si debba ripuntare a una ricomposizione della rappresentanza politica cattolica unitaria, in altre parole una DC moderna ma avendo quel modello, oppure se invece si debba puntare a una scomposizione dell'attuale offerta politica, ma con i cattolici destinati a svolgervi un ruolo da protagonisti, come nuovo collante di valori, di coerenza politica e soprattutto di selezione di nuova classe politica. Da questo punto di vista, i diversi esponenti che hanno parlato a nome delle proprie associazioni nel dibattito sono sostenitori di tesi un pochino diverse. C'è una fronte più prudente forse, e dall'altra parte anche più ambizioso, che punta alla scomposizione e ricomposizione, e c'è invece chi punta a un soggetto politico nuovo. Guardiamo come i giornali hanno presentato oggi l'incontro di Todi. Forse Repubblica è quello più netto, Repubblica pagina 2 e 3, quindi dà molto rilievo al dibattito di Todi, ed è molto più netto perché vi fa addirittura un grafico a pagina 3 in cui divide le associazioni e i loro leader presenti a Todi in due veri campi. Dice che per un soggetto politico autonomo sono Confcooperative, il Movimento Cristiano Lavoratori, l'Azione Cattolica e in questo fronte mette quindi personaggi come Lorenzo Ornaghi, il rettore dell'Università Cattolica, Luigi Marino, il leader di Confcooperative, Dario Antiseri, liberista cattolico, mentre invece mette in una posizione più prudente, con un rapporto con il centrodestra post Berlusconi ispirato a fortissima delusione, ma attenti a pronunciare parole impegnative per la costituzione di un nuovo partito, il leader della CISL, Raffaele Bonanni, e lo stesso Natale Forlani, portavoce forum delle associazioni. Naturalmente mi tocca dire che però Raffaele Bonanni, consigliato da Repubblica, un prudente, qui forse è l'atteggiamento di Repubblica che non sopporta la CISL per quello che ha fatto in polemica contro la CGIL, perché Bonanni ieri ha detto chiarissimamente: si vede che questo governo è finito, questo governo non va bene, bisogna pensare a un altro governo. La posizione di Bonanni ieri è stata netta nel dire però: vi chiedo, volete elezioni anticipate? E la risposta che ha ottenuto è no, quindi no alle elezioni anticipate, appunto per una scomposizione e ricomposizione politica. E il titolo di Repubblica è molto forte, dice: la rivolta non si ferma a Todi dei cattolici, sottinteso, a dicembre torna al Family Day per dare l'ultima spallata a Silvio. E poi il catenaccio è: ma la nuova DC divide il fronte, l'irritazione di Bertone. E qui c'è un altro aspetto da tenere in considerazione, perché mentre Angelo Bagnasco, la guida della CEI, è per le sue posizioni fortemente, energicamente impegnato in questa prospettiva, Tarcisio Bertone, il segretario di Stato, è considerato da Repubblica e da molti osservatori, e anche per la maggior prudenza delle sue posizioni, come invece più vicino alla tesi del PDL. Se andiamo a vedere i giornali più vicini al centrodestra, osserviamo una forbice, come solito, di posizione. Giuliano Ferrara sul Foglio legge con maestria quello che è avvenuto a Todi, perché dice, mette da una parte in prima pagina un commento dicendo: Cristo non è democristiano, questo l'ha scritto lui, c'era l'elefantino a firma, e la sintesi secondo Giuliano Ferrara è che quello di Bagnasco è stato un grande discorso dopo le scoppole date ai comportamenti privati di Berlusconi. Perché un grande discorso, pensa Ferrara? Perché dice, questo discorso afferma il no al trascinamento della Chiesa in spallate politiciste o in vaghezze solidariste. Bensì, i vescovi sarebbero in campo, sì, ma per le cose che contano, la vita, la bioetica, appunto, sulla scia di Benedetto XVI. E diciamo, la volgarizzazione di questo commento elevato, che pronuncia parole meravigliose sul discorso di Bagnasco, che viene poi integralmente pubblicato, e la sintesi successiva: Moody's a Todi, giù il rating della DC, soggetto prepolitico, battaglia etica, molti delusi, no al terzo polo. Quindi la sintesi del Foglio sarebbe che no al progetto dell'UDC, praticamente Casini Montezemolo, e nessun partito nuovo, solo impegno etico. Se andiamo a vedere invece il giornale, il quotidiano diretto da Sallusti, è la lettura un po' diversa da questa maestria attutente di Giuliano Ferrara dietro i suoi complimenti, perché il giornale non usa mezzi termini. In prima pagina dice: la sinistra lancia l'OPA sui cattolici, Bagnasco evoca il ritorno alla DC. E se andate poi all'interno, il titolo a tutta pagina è chiaro, di polemica: quelle associazioni cristiane a rimorchio della sinistra, il passo indietro di Berlusconi invocato da Bonanni trova consenso nell'opposizione che ha trovato in Bagnasco il suo papa straniero. Quindi il papa straniero sarebbe non quello che esce fuori dalle primarie del PD e di tutta la sinistra, ma il presidente della CEI. Ecco, letture così divergenti si accompagnano in molti quotidiani, poi nelle pagine, quasi tutti danno 2 o 3 pagine, i giornali italiani all'incontro di Todi, si accompagnano a ampli eccerpta brani, scusatemi, dal libro di Maurizio Sacconi, il ministro del welfare, che è in uscita, che è un libro il cui titolo strizza l'occhio deliberatamente al mondo cattolico, perché si intitola Ai liberi e forti. Ricordate, Ai liberi e forti era il testo dell'appello lanciato da Luigi Sturzo per la nascita del Partito Popolare, e nel libro di Sacconi si fa chiaramente intendere, come dice il sottotitolo del volume, che valori, visioni e forma politica di un popolo in cammino sono quelli poi dell'impegno sociale cristiano, e quindi è un libro con cui Maurizio Saccone tenta di far da ponte, per così dire, al PDL carismatico berlusconiano, i cui comportamenti privati certo non possono fare i conti bene con la dottrina e con l'etica della Chiesa, e invece pensare alla trasversalità e agli impegni all'impegno per la famiglia e per la libera formazione, che sono al centro della riflessione dei cattolici. Ecco, con i nostri ospiti tenteremo oggi, abbiamo qualche difficoltà nei collegamenti telefonici, tenteremo di fare una riflessione per capire innanzitutto qual è il loro punto di vista sulle diverse opinioni di un mondo cattolico così eterogeneo, perché poi associazioni come la CISL, le ACLI, il Movimento Cristiano Lavoratori e Coldiretti hanno anche una storia nella quale la convergenza non ha largamente prevalso sulla divergenza e letture, criteri di lettura dei problemi politici, sociali, economici del nostro paese, anche molto molto divergenti. Quindi in realtà questo Litodi è un ritorno a una matrice unitaria che bisogna sapere leggere, se davvero c'è una classe dirigente in queste associazioni che si propone anche come classe politica in formazione, con una rappresentanza unitaria intorno ai valori cattolici, oppure se si tratta di un fermento per la delusione e per il declino di Berlusconi. E questo potrebbe essere un'altra lettura, ma che ancora è lontano dal preludere poi a forme organizzative tali da proporre davvero una nuova offerta politica in cui l'unità, la coerenza, la ricerca di una propria forza espansiva nella società italiana dei cattolici sia riposta al centro. Allora cominciamo con l'opinione di un osservatore che a sua volta ha scritto un libro, è autore di Mal di Chiesa, dubbi e speranze di un cristiano in crisi, biografo di Giovanni Paolo II, vaticanista, Gianfranco Sviderkowski. Buongiorno. Buongiorno Gianni, buongiorno. Allora, posso chiedere a lei innanzitutto che impressione le ha fatto Todi dal punto di vista di questa divergente lettura politica che ne offrono oggi gli strumenti di informazione italiana? È una prima riflessione intanto sul vertice della gerarchia cattolica oggi in Italia. Questa dialettica così forte che viene attribuita tra la CEI di Bagnasco e il segretario di Stato Bertone è un punto vero o un po' esagerato da chi lo commenta? Ecco, iniziamo da questi due primi aspetti. Beh, devo dire che sicuramente Todi è un punto positivo, perché dopo gli anni della diaspora, 16 anni fa dalla fine della DC, dopo gli anni della diaspora, dopo gli anni anche del pluralismo partitico, politico, che non è che abbia dato tanti risultati, questo poteva essere un momento, può essere un momento nuovo, nel senso di questo ritrovamento delle ragioni di un'unità che vada al di là soltanto della difesa dei principi propri della fede, ma anche di trovare unità per dare degli orientamenti rispetto alla realtà politica, alla realtà sociale politica, in modo che i cattolici possano offrire le loro idealità, questo patrimonio di idealità, e non essere perciò comprimari gregari degli altri. Il secondo aspetto positivo, secondo me, poteva essere quello appunto dell'inizio grembo, come diceva in qualche modo anche Bagnasco in quel suo discorso, di una nuova generazione di cattolici in politica, cioè cattolici veri, trasparenti, non più, devo dire, questo riprendo un po' anche quello che ho scritto nel libro, che cerco di un po' di smontare questo nodo gordiano, il clericalismo che ancora si annida nella Chiesa, cioè di cattolici che non siano più in qualche modo succubi dei chierici della Chiesa, ma offrono una creatività propria. E il terzo punto era che secondo me questo può offrire anche degli aspetti positivi ad una Chiesa, soprattutto alla Chiesa italiana, che è ancora 50 anni dal Concilio, è in qualche modo forse troppo impelagata in questioni propriamente politiche, al di là invece del suo compito naturalmente di rappresentare la fede, e la fede nella situazione sociale e culturale, che è suo dovere è farlo così. Ecco, appunto, speravo che a 50 anni al Concilio, che c'era un famoso documento, la Gaudium et Spes, che diceva che non è che devono dare sempre risposte i pastori, ma piuttosto diceva, forse trovo anche la frase, che siano i laici ad assumere la propria responsabilità alla luce della sapienza cristiana e prestando fedele attenzione alla dottrina del Magistero. Ora, devo dire, al di là delle letture che ci sono state, che è proprio il punto, indipendentemente dal fatto delle differenze fra Bertone, che sicuramente ha più una diretta insistenza sulla realtà anche politica italiana rispetto a Bagnasco, che pensa più, diciamo, a quelli che lui chiama i valori che non si devono toccare, intoccabili. Però anche in questo io penso un po' che c'è qualche perplessità da quello che è venuto fuori, cioè proprio forse, non dico per responsabilità, ma anche per situazione della Chiesa in questo momento. Cioè io posso capire Bonanni, perlomeno dando retta alle riassunti che hanno fatto, che rispetto a dare delle indicazioni sul piano sociale e culturale per questo futuro eventuale soggetto di collegamento, si immerga invece nella realtà concreta, politica, e c'è un'emergenza oggi dell'Italia, e Bonanni, a nome sicuramente delle associazioni, quelle del lavoro più che altro, parla di governo più forte, governo di tutte le coalizioni, contro la legge elettorale e così. Però quello che ho trovato è sempre questa presenza della Chiesa, Bagnasco che apre i lavori, rispetto invece a quello che doveva essere forse una riflessione proprio dei laici cristiani. E trovo in questa una piccola differenza, non so se sia una sfumatura semplicemente dovuta anche ai riassunti. Bonanni parla di un governo indipendente, ma poi va a finire e dice trattare alcune questioni essenziali per la sicurezza del paese. Mentre invece Bagnasco, nel suo intervento, e pur con tutte le differenze che ci possono essere da Bertone, fa in qualche modo un'agenda, propone lui un'agenda di un nuovo esecutivo, o perlomeno da parte della Chiesa, perché dice che i valori, i soliti valori intangibili, devono venire prima di quelli dell'etica sociale. Ora, naturalmente, vita, famiglia, lo dice un cattolico, sono valori fondamentali, importanti, ma in questo momento qual è l'accenno che bisogna dare più? Su un'emergenza Italia o quello di difendere i principi, che bene o male sono comunque principi sempre intoccabili? Perciò io mi chiedo se il discorso di Bagnasco corrisponda a quell'auspicio che De Bortoli faceva ieri sul Corriere, quando appunto diceva che si è forse troppo insistito sulla difesa dei valori cosiddetti non negoziabili, al punto, lui ha detto, che si è estesa l'incomunicabilità con le posizioni laiche all'insieme delle questioni civili e economiche. Cioè, dicendo, io mi chiedo se la Chiesa sta aiutando veramente il mondo cattolico, questo mondo cattolico emergente, a ritrovare un dialogo con le altre forze e la possibilità di trovare dei punti di raccordo, pur mantenendo quindi la propria identità, il proprio convinzioni di fede e di adeguamento alla dottrina sociale della Chiesa. Allora, qui c'è uno dei possibili criteri, è che coloro che ritengono che l'invito a Bagnasco, la posizione di Bagnasco, anche se poi Bonanni ha detto sì, Bagnasco viene, parla, poi va via, siamo noi che tiriamo le conclusioni, e cioè il ritorno ai valori preminenti rispetto a una capacità di dialogo, si guarda anche con occhio diverso a seconda delle attese che si abbiano poi sui cattolici che si aggiungono al terzo polo e diano la vera spallata a Berlusconi. Questo io lo dico non da un punto di vista di difesa di Berlusconi, io sono di quelli che ripetono che Guano Berlusconi è finito, esaurito, e prima al suo stesso campo pensa a un'iniziativa politica capace di superarlo, meglio è per lui, ma è soprattutto meglio per il paese. Ma detto questo, è un po' singolare osservare ieri come la reazione a Todi di alcuni esponenti che di solito vengono considerati un po' i federatori nuovi cattolici, tipo Andrea Riccardi, ex Sant'Egidio, che è passato a Todi e ha detto: ma insomma, sì, vedo che c'è una sensibilità comune, ma è ancora lontano da una convergenza su una vera decisione formale. O De Rita, Giuseppe De Rita, io sono molto d'accordo con la lettura che dà Andrea Tornelli sulla Stampa. Giuseppe De Rita è una persona che in tutti questi anni ha scritto sempre sul Corriere della Sera rievocando la distanza tra rapporto insoddisfacente a suo giudizio dei cattolici in questa seconda repubblica rispetto a quello della prima, eppure anche De Rita ha detto che la riproposizione della forma partito, che da tanti attesa, è in realtà è un passo indietro. Insomma, conta anche l'occhio con cui si guarda a tutto questo a seconda della vicinanza o meno di sviluppi politici in questo Parlamento rispetto alla situazione attuale. Eccoci tornati in studio, ci stiamo interrogando sull'incontro ieri di Todi tra l'associazionismo cattolico dopo la prolusione del presidente della CEI Angelo Bagnasco, la bipartizione tra chi pensa a un nuovo soggetto politico e tra chi pensa a una scomposizione dell'attuale offerta politica, ma insomma il giudizio della delusione e del superamento oramai dell'attuale fase politica del governo Berlusconi, condiviso da tutti i presenti ieri a Todi. Sentiamo rapidamente due telefonate degli ascoltatori, poi ci ha raggiunto anche Sandro Magister del Vaticanista dell'Espresso, e abbiamo poi una domanda anche per il professor Nicola Piepoli, presidente dell'Istituto Piepoli, su cosa questo possa voler dire secondo i sondaggi attuali nell'opinione degli italiani come offerta politica nuova. Cominciamo con Doriano che ci chiama da Pistoia. Prego Doriano. Buongiorno, io sono cattolico da una vita, sono impegnato nel sociale a livello di base, l'unica cosa che a me dà noia è quando il politico strumentalizza la nostra religione, il nostro mondo. Ad esempio, il 2 marzo del 2008 a Bari iniziò il tour elettorale di Berlusconi e lui disse: siamo noi il partito dei cattolici. Oppure quando ci fu Famiglia Dei, Fini, Berlusconi, tutti Famiglia Dei, e poi dopo due mesi Fini lasciò la moglie perché aveva la sua signora, cioè la sua diciamo amante, incinta. Cioè, voglio dire, ecco, questa strumentalizzazione a me dà noia. Liberiamoci da questi politici che vogliono strumentalizzare la nostra Chiesa. Poi tutti impegnati nel suo mondo, nelle varie diciamo forze politiche, e insieme facciamo attività politica, religiosa, ecco, questo che mi dà noia. Siamo noi il partito dei cattolici. La mia mamma, che è la mia mamma che è morta, ecco, lo votò proprio perché ci bada, che è la Famiglia Unita, è cattolico, cioè lui rubò il voto alla mia mamma, e questo ecco perché gli si fa le bucce a Berlusconi, perché disse siamo noi il partito dei cattolici. Ecco, questo allora a questo punto deve pagare conto, e sempre con rispetto e con amore, per carità, però deve pagare conto per i voti che ha rubato alle persone. Questo mi dispiace a me. Tutto grazie qua. Grazie Doriano, però lei resta per il pluralismo dell'impegno nei diversi partiti, ciascuno in coerenza alla propria lettura del messaggio della dottrina cattolica. Andrea da Cesena, come la pensa? Buongiorno, buongiorno. Dunque, penso che io non ne sento il bisogno dell'impegno cattolico in politica, e credo che non ce ne sia la necessità di fare un partito unico dei cattolici, perché tanto in Italia comandano loro e hanno sempre comandato loro. In Italia non si muove foglia che non voglia il Papa. Siamo l'unico paese nel quale concediamo di tutto alla Chiesa Cattolica in termini economici, con l'8 per mille, e perché se tu anche lo dai allo Stato, il 8 per mille, comunque alla fine il 99% va sempre alla Chiesa Cattolica. Hanno l'esenzione dall'ICI perché tutti cercano di fare tutto per imbonirsi la Chiesa, perché sono un bacino di voti incredibile. Ricordo anche che i due più grandi svolte dei rapporti tra Stato e Chiesa italiano li ha fatti Mussolini, che era anticlericale, ma si è dovuto ringraziare i cattolici dopo che c'era andato un po' a muso duro e aveva visto che non ce la poteva fare. E poi il concorso che ha fatto Craxi per far ingoiare i cattolici, il fatto che c'era Pertini Presidente della Repubblica socialista e Craxi Presidente del Consiglio socialista. Per cui comandano già loro, non hanno bisogno di fare niente. Grazie Andrea, diciamo una energica riproposizione della posizione laico, anzi alcuni direbbero laicista, quella di Andrea da Cesena. Magister, grazie intanto di essere con noi, e la sua lettura della prima giornata ieri dei lavori di Todi, che è corretta questa bipartizione tra chi lì presente interpreta la parola del Presidente della CEI come un invito a un rapido impegno, sì, ma solo per scomposizione e ricomposizione dell'offerta politica, ma nel pluralismo dell'impegno dei cattolici, destra e sinistra, o chi invece dice beh, però un soggetto unitario potrebbe essere la logica conseguenza di questo nuovo appello a farci sentire di più come cattolici. Lei che dice? Beh, sicuramente il Presidente della CEI ha dato un orientamento che mostra qual è la visione che la gerarchia cattolica italiana ha della situazione politica in Italia oggi e della presenza dei cattolici in questa situazione. L'accettazione del pluralismo della presenza cattolica sull'arco delle forze politiche è un dato di fatto, è un dato di fatto che è assunto anche come sostanzialmente positivo dalla presidenza della CEI attuale e precedente, cioè il Cardinale Ruini. Naturalmente all'interno di questa variegata disposizione sull'arco delle forze politiche dei cattolici, la Chiesa non rinuncia a indicare una strada di convergenza su una lettura globale della crisi delle democrazie, che deriva, giudizio appunto della Chiesa, da una deriva antropologica, cioè da una visione dell'uomo che va riportata a quelle che sono le sue forze sorgive, cioè esattamente quei valori che vengono chiamati non negoziabili, che sono quelli che danno sostanza a una presenza cattolica che può trovare l'unità su questi valori anche quando su tante altre cose milita in partiti diversi. E questo è l'orientamento che ha dato Bagnasco, questo non dando un orientamento nuovo, ma ribadendo l'orientamento che ormai costante da parte della gerarchia cattolica, papi compresi, dalla fine della Prima Repubblica. L'accettazione cioè proprio appunto di una presenza dei cattolici su diversi fronti, che però abbiano la capacità di ritrovarsi uniti sull'essenziale. E questo naturalmente esula completamente dall'idea di costituire un partito, un nuovo partito cattolico. Detto questo, non c'è dubbio che il mondo cattolico italiano, per limitarci a considerare questo mondo cattolico, non è affatto unito nel condividere in pieno questa visione che la gerarchia cattolica predica. Ci sono dentro il mondo cattolico italiano molti che pensano che i cosiddetti principi negoziabili sia meglio tenerli un po' fuori, perché sono quelli che dividono, sono quelli che impediscono di trovare convergenze su determinate soluzioni più tipicamente politiche, economiche, sociali, eccetera. E in questa luce pensano anche ricomporre in un modo particolare il panorama politico italiano. Ci sono forze esterne al mondo cattolico che naturalmente condividono e incoraggiano questo tipo di percorso. Il Corriere della Sera è stato esemplare da questo punto di vista, ha gonfiato l'evento di Todi in un modo straordinario nelle settimane e nei mesi precedenti, ma esattamente per quello che dicevo un momento fa, cioè per cercare di portare i cattolici a trovare l'unità in una sorta di federazione al centro dello schieramento politico da potersi alleare e che prescindesse dai principi non negoziabili e trovasse delle intese appunto di carattere politico con altre forze. Cioè, diciamo insomma un soggetto che si aggiunge a Casini e Montezemolo, detta, tradotta, adesso naturalmente lei non lo dice, non è lontano dalle sue intenzioni, dai suoi strumenti interpretativi, io sintetizzo in chiave brutalmente giornalistica, insomma, però anche a mio giudizio c'è chi ha manifestato con la forza del tratteggiamento dei suoi editorialisti in prima pagina esattamente questo scopo, forse è la stessa ragione per cui chiede di sciogliere Confindustria oggi, questa ci aggiungo anch'io come cattiveria personale. Abbiamo il minuto sull'informazione stradale. Allora, dopo l'opinione di Sviderkowski e di Magistra, a cui comunque poi facciamo due domande secche finali di opinione per il futuro, una domanda altrettanto rapida al professor Nicola Piepoli, presidente dell'Istituto Piepoli, sondaggista conosciuto e noto. Nei sondaggi in quest'ultimo tempo di accelerazione della crisi della presa nell'opinione degli italiani del governo Berlusconi, il tema dei valori non negoziabili dei cattolici è collegato nei sondaggi a forme nuove che vengono espresse di attenzione, che preludano, facciano immaginare che dietro l'angolo c'è una nuova formazione politica cattolica o che chiedano comunque l'accentuazione di più coerenza su quei valori? Cosa si legge nei sondaggi su questi temi di cui stiamo discutendo, Piepoli? Nei sondaggi non si legge un bel niente, per la semplice ragione che i sondaggi sono numeri e i numeri derivano da domande. Nei sondaggi si legge quindi il desiderio degli italiani di un bene supremo che è la tranquillità e la pace e di un altro bene supremo che è il denaro, cioè avere lavoro e avere la forza per andare verso il futuro, per la semplice ragione che gli italiani vedono poco futuro. In ogni caso non sono soli, sono in mezzo ai popoli europei che nell'ambito dei Big Five, dei grandi popoli europei, sono nella stessa condizione, non vedono futuro. Tra 20 anni, secondo gli europei, noi saremo più poveri di adesso. E questo bisogna vincerlo. E bisogna vincerlo come? Con atti di fede, in cui non esiste la fede cattolica, esiste la fede per il futuro. La fede cattolica è una delle parti della fede nel futuro. Manca la fede nel futuro. Per quello che riguarda l'area cattolica, per quello che riguarda la possibilità di creare un partito, è chiaro che noi abbiamo fatto una serie di sondaggi, diciamo, come qualsiasi istituto di ricerca che sia valido, certo, sul mercato. E nell'ambito di questi sondaggi esce fuori che il centro, interpretato vagamente come cattolico, anche se con una base laica, potrebbe arrivare come bacino potenziale a un 20-25% del totale dell'elettorato. Chiaramente se ci fossero dei cervelli che a un certo momento animano questo centro. Cioè, un centro affidato alle forze che adesso sono nel centro non ha la forza di sollevare le montagne. Bisogna sollevare le montagne, se uno vuole. Cioè, il concetto è trovare dei leader i quali a un certo momento aggreghino, oltre ai leader esistenti, una forza nuova centrale, che poi non è nuova, è vecchia di 2000 anni. Direi che è un cattolicesimo laico, esattamente quello che, diciamo, ha tenuto l'Italia insieme e l'ha portata verso il futuro tra il 1945 e il 1990. Io ringrazio Nicola Piepoli. Domanda flash a Svidercovsky con un minuto di risposta. Crede in questo quadro attuale a un'accelerazione della scomposizione PDL, in cui qualcuno in nome di valori di cui stiamo parlando guardi all'UDC, guardi a Montezemolo, ma in questo Parlamento per un governo di transizione, o non c'entra assolutamente niente con quello con cui si discusse i reattori secondo lei? No, non credo di no, anche perché oltre alla scomposizione del PDL forse deve pensare anche un po' alla scomposizione della Lega, perché ricordiamoci che la Lega è subentrata, se uno guarda bene sotto, a quello che era una volta il mondo cattolico, soprattutto nel nord-est e su in Italia. Quindi non credo a questo. Quindi quello che diceva anche Piepoli sul fatto della centralità, si vede ancora il mondo cattolico come posto al centro di uno schieramento politico, mentre invece io penso che tutto questo che si sta facendo, anche se con tante perplessità, sia di creare una nuova generazione cattolici che operano in politica con la loro fede, ma anche con la loro libertà, con la loro responsabilità, senza deleghe da parte della Chiesa, ma soltanto con le richiamo alla Chiesa. Cioè, io penso questo, che il futuro sia questo, che il futuro, cioè che il cattolico sia in qualsiasi schieramento, ma con la sua responsabilità e trovando naturalmente poi dopo questa unione, come chiedeva anche Bagnasco a suo tempo, nei momenti fondamentali, ma anche nei momenti della realtà sociale e civile. Ecco, io penso questo. Grazie Svidercovsky. Magister, si è parlato tanto nel post Ruini anche di un animatissimo confronto interno nella Chiesa italiana rispetto a Bagnasco e rispetto all'impostazione precedente di Ruini. Ieri è sembrata invece una deriva di continuità, di sviluppo, ma di continuità rispetto alla tradizione ruiniana che chiedeva impegnatevi facendosi sentire di più, ma dovunque siate, per così dire. Era un'interpretazione che ha portato a casa anche bei risultati per la Chiesa italiana del bipolarismo italiano. Secondo lei questo dibattito interno alla Chiesa italiana ha poi dei riflessi nei movimenti cattolici? Si è visto a Todi oppure è un po' esagerato dai media? Sì, io direi che questo dibattito interno c'è, nel senso che la linea Ruini è stata sicuramente egemone, ha avuto la capacità di guidare con forza nell'epoca appunto in cui Ruini era presidente della CEI, ma se fossero fatte dei sondaggi, per così dire, non sarebbe risultata particolarmente premiata dalla maggioranza dei consensi, anche a livello di vescovi e soprattutto anche a livello di clero. Oggi Ruini non c'è, c'è il suo successore che è il cardinale Bagnasco. Il cardinale Bagnasco ha scontato nella fase iniziale della sua presidenza della CEI il fatto che non era un leader già affermato, esattamente come Ruini a suo tempo dovette fare degli anni di fatica per diventare leader della Chiesa italiana. Ora Bagnasco, devo dire che con Todi si è qualificato in modo forte come il nuovo grande leader della conferenza episcopale ed è totalmente sulla linea di Ruini. Da questo punto di vista quindi la leadership non ha minimamente mutato rotta. Il mondo cattolico invece è molto variegato e in larga parte piuttosto reticente a seguire la linea Ruini oggi impersonata al Bagnasco, è tuttora abbastanza diversificato nelle sue posizioni, ma se dovessi dire se c'è un piano B alternativo a quello Ruini e Bagnasco, io direi che non c'è, c'è casomai confusione. Un piano B, un piano alternativo è stato individuato tante volte a livello gerarchico nel cardinale Bertone, che però non è la conferenza episcopale italiana, è il segretario di Stato Vaticano. Ma di nuovo, il cardinale Bertone anche lui non è portatore di un piano B, è portatore di una navigazione abbastanza spregiudicata, perché poi, non chiara, ma non coincidenti con quella della conferenza. Perché poi alla fine invece i giornali lo hanno bollato per essere quasi amico del governo Berlusconi. Detto questo, le opinioni, come sentite, sono distinte. C'è stata secondo me una evidente anche esagerazione giornalistica di Todi. Qui comunque è stata una grande occasione e un'importante parte della società italiana, la quale io guardo sempre con rispetto, anche perché ho moltissimi amici conosciuti quando facevamo impegno giovanile, e ne conosco la coerenza nella vita, che è il primo valore al quale io guardo, al di là delle appartenenze. La prima coerenza nella vita è quella che parla dell'impegno di un uomo come persona nei suoi rapporti, e poi nella società civile, e poi anche in politica. E questo lo penso io, che sono un laico. Grazie a Svidercolski, grande a Magister, grazie a Magister, grazie a Piepoli. Noi abbiamo l'appuntamento a domani. Linea al giornale radio. 9 in punto.